I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Da una sovrastruttura all'altra, ovvero come girare in tondo senza cambiare di posto. Christine Delphi, Un féminisme matérialiste est possible, agosto 1982. Ciao a tutte e ciao a tutti. La frase di apertura di questa riflessione l'abbiamo presa da Christine Delphi. È contenuta in un articolo, Un femminismo materialista è possibile, dell'agosto del 1982, che sta dentro la pubblicazione che Silleps ha fatto nel 2013, che si intitola L'ennemi principale, il nemico principale, appunto, di Christine Delphi, e contiene articoli, riflessioni, contributi che lei ha fatto in questi anni. Perché ci è sembrata particolarmente adatta? Perché le riflessioni femministe di questa puntata le vorremmo fare sullo sciopero delle donne, cioè sugli avvenimenti che sono successi in America Latina, in Polonia, in Francia, che riguardano una modalità di lotta delle donne e su cui appunto vorremmo condividere alcune riflessioni con voi. Lo scorso 23 settembre la Camera Bassa del Parlamento della Polonia ha votato a favore di un disegno di legge che, se approvato definitivamente, avrebbe vietato praticamente ogni forma di aborto. Già in Polonia la pratica dell'interruzione di gravidanza è ristretta a pochissimi casi. Questo ha scatenato un'ondata di proteste da parte delle donne. E il 3 ottobre in Polonia c'è stato uno sciopero generale delle donne. No? Ci sono state manifestazioni anche nelle altre città d'Europa a sostegno e questo movimento ha preso il nome di Zarni Protest, non mi dite se la pronuncia è giusta, però significa protesta in nero. Praticamente lo sciopero delle donne prevede come modalità di lotta che tutte le donne si astengano da qualsiasi tipo di attività e si facciano pesare questa astensione dalla società civile per rimarcare quanto contano, il peso che hanno appunto, che ha il loro lavoro e la loro disponibilità all'interno del sociale. E quindi questo tipo di lotta potrebbe servire a modificare o a porre un freno a tutta una serie di derive reazionarie. Ora questa legge in Polonia è stata comunque bocciata. E però questo ci ha fatto riflettere su alcune cose, perché la legge attualmente in vigore in Polonia è già di per sé molto restrittiva ed è stata introdotta nel 93, cioè dopo la caduta del socialismo reale, diciamo così, no? E quella che è in atto adesso depenalizza Soltanto, insomma, l'aborto soltanto in tre condizioni eccezionali, cioè quando il feto presenta gravi malformazioni, quando la madre è stata vittima di uno stupro o di un incesto o quando la vita della futura madre è in pericolo. Dopodiché ci è venuta in mente una considerazione, cioè la Polonia ha fatto un lungo percorso dalla caduta del socialismo reale, un lungo percorso di adesione ai principi neoliberisti, un lungo percorso di, chiamiamola, europeizzazione in senso occidentalista, nel senso occidentalistico del termine, con delle privatizzazioni importanti e con impostazione, una virata assolutamente a destra, pesantemente a destra dal punto di vista dei principi e dal punto di vista dell'impostazione del sociale, anche dal punto di vista cattolico, tra l'altro, che ha condotto la società a un certo tipo di configurazione. Ora, il fatto che la Polonia adesso si trova in questa situazione, cioè che da una legge sull'aborto molto liberalizzante che c'era prima del 93 ad una legge restrittiva che è stata messa in atto dopo il 93, ad un tentativo di addirittura adesso di togliere la possibilità d'aborto del tutto alle donne. Non è slegata dal contesto sociale che si è venuto a creare e dalle scelte politico-economiche. Angola, Angola, oi, força, a minha osqueta matra, bem coar para manhã caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha osqueta matra, bem coar para manhã caminho. Esconvivência, desnhos vivência. Quest'ottobre, poi, in Argentina, le donne sono entrate in sciopero, cioè è stato chiamato uno sciopero delle donne per protesta, per portare all'attenzione, per mobilitare la società civile contro i femminicidi, perché la ragione, diciamo, il motivo immediato è stato l'assassinio di una ragazza di 16 anni, torturata e uccisa, stuprata e uccisa da tre uomini, e in maniera veramente da suscitare indignazione, e che ci ricorda molto un femminicidio, che ci ricorda molto le modalità dello stupro che è avvenuto all'Aquila fuori dalla discoteca di Pizzoli. Allora, per fortuna, lo stupro dell'Aquila non si è concluso per puro caso, poi tra l'altro con la morte della ragazza, però allo stesso tempo le modalità di questo femminicidio e di questo stupro, non per niente questo dell'Aquila è stato agito da un militare. E sono molto simili. Allora, le donne hanno chiamato le donne hanno chiamato ad uno sciopero, un'astensione dal lavoro di un'ora e un corteo a Buenos Aires, partito dall'Obelisco lungo l'Avenida 9 de Julio fino alla Casa Rosada. la sede della presidenza nella Plaza de Mayo. Allora, le associazioni di donne femministe di svariato tipo hanno chiesto a tutte le donne di vestirsi in nero per un giorno e nel manifesto diffuso per la convocazione dello sciopero ricordano le promotrici che questo nuovo e brutale femminicidio, leggo testualmente, pone in evidenza la violenza alla quale siamo tutte esposte. Scioperiamo per tutte le donne che non ci sono più, per quelle assassinate e per quelle desaparecidas, contro la violenza e il terrorismo machista, contro l'impunità, contro la censura, l'inerzia e la complicità dello Stato. Questo in Argentina in questo ottobre. Poi, in questo novembre, pochissimi giorni fa, l'altro giorno, in Francia è stato chiamato uno sciopero contro delle donne, contro le disparità salariali, no? A una certa ora, alle 16:34, numerose donne francesi hanno smesso di lavorare in segno di protesta il 7 di novembre, contro le disparità salariali. E perché, nonostante tutte le petizioni di principio, le belle parole e compagnia bella, di fatto la disparità tra uomini e donne, tra stipendi, tra salari e tra la considerazione sul lavoro tra uomini e donne è ancora molto, molto forte. Quando si tratta di stipendio, poi in particolare persiste una grave diseguaglianza di genere, no? Allora, le organizzatrici promettono che questa iniziativa sarà ripetuta l'8 marzo e il 7 novembre dell'anno prossimo. Allora, e questa è contro la disparità di trattamento in una società occidentale, no? Che presuppone abbia dell'attenzione particolare, si presuppone. Allora, sono tre modalità di sciopero delle donne diverse e chiamate per delle ragioni che comunque sono fondanti rispetto al problema dell'oppressione su di noi. Cioè, in Polonia la manifestazione, lo sciopero, perché noi stiamo parlando di sciopero, è stato chiamato per contro il controllo dello Stato sul corpo delle donne, no? In Argentina lo sciopero delle donne è stato chiamato per la violenza che queste subiscono per i femminicidi, ma contro la violenza di qualsiasi tipo, fisica, psicologica, sessuale e non, da parte di questo sistema. In Francia lo sciopero delle donne è stato chiamato per la parità sul lavoro e per la parità di trattamento. Quindi sono tre aspetti che sono fondanti rispetto all'oppressione di genere. E poi vorremmo fare una piccola parentesi, chiamiamola storica, cioè non è la prima volta che vengono chiamati gli scioperi delle donne, lo sciopero come modalità di lotta, no. 41 anni fa, nel 75, venne organizzato in Islanda uno sciopero riuscì moltissimo. Il 90% delle islandesi si rifiutò di lavorare, di cucinare, di prendersi cura dei propri figli per un giorno intero nel mese di ottobre. E quella giornata è ricordata ancora perché ha messo in evidenza, no, il contributo che le donne danno alla società. Dopo c'è stato un altro sciopero storico, che è stato quello del 14 giugno del 91, il giorno dello sciopero delle donne in Svizzera. Ed anche qui è stato chiamato uno sciopero in Svizzera perché persistevano tantissime discriminazioni, specialmente per quanto riguardava il lavoro, le retribuzioni, le opportunità di carriera, che poi è una cosa appunto che si è ritrovata anche nello sciopero dell'altro giorno in Francia, rispetto a quello che la Svizzera stessa aveva messo in Costituzione 10 anni prima, nel 1981. Però a noi tutto questo ha fatto venire in mente una serie di considerazioni. Ma non è un caso che la modalità di sciopero come tipo di lotta, di sciopero delle donne interclassista, si venga di nuovo resuscitata in questo momento storico? Non è un caso perché il neoliberismo mira e ha mirato sempre alla spoliticizzazione delle lotte sociali. E il fatto che anche le lotte delle donne si dimentichino che genere e classe sono inscindibili, è uno specchio del passaggio storico che stiamo attraversando. Lo sciopero in Polonia fa riferimento al controllo sul corpo delle donne, no? Al fatto che le donne praticamente si voleva addirittura togliere la possibilità di aborto. Però l'aborto già in Polonia è molto restrittivo, no? La legge che c'è adesso in Polonia è del 93 e questa legge del 93 prevede che si possa abortire soltanto in tre casi limitatissimi, cioè quando il feto presenta gravi malformazioni, quando la madre è stata vittima di uno stupro o di un incesto, quando la vita della futura madre è in pericolo. Quindi è già estremamente restrittiva. Però andiamo a vedere legge che è in atto e che addirittura si voleva togliere, è del 93, cioè dopo la caduta dell'Unione Sovietica, questa legge è stata cambiata dopo la caduta dell'Unione Sovietica, nel senso che prima la Polonia aveva l'aborto legale come c'era in Unione Sovietica, cioè permesso, assistito e compagnia bella. Nel 93 è stata cambiata questa norma. Ma c'è un motivo, cioè la Polonia ha iniziato un percorso di occidentalizzazione in senso neoliberista molto forte, con delle privatizzazioni a tutto campo, con una impostazione ideologica e sociale basata sulla meritocrazia, sui valori neoliberisti, chiamiamoli così, in senso lato. Con una retrocessione dallo stato sociale delle istituzioni, non totale, ma molto molto più ristretta, con un'adesione ai percorsi di finanziarizzazione, di mercificazione e di adesione a un certo tipo di impostazione sociale che sono tra i più forti riscontrati e più messi in atto in maniera più veloce tra quelli che sono i paesi dell'ex chiamiamolo blocco sovietico, sotto l'influenza sovietica in vari modi. Allora, è chiaro, oltretutto poi la Polonia è impostata su un percorso su una postazione sociale di cattolicesimo integralista, quindi siamo a questi livelli. Allora, adesso volevano addirittura togliere l'aborto. Si può mai chiamare uno sciopero, una forma di lotta interclassista com'è lo sciopero delle donne, non rendendosi conto e bypassando quella che è la situazione politico-sociale del paese in cui uno si trova e non tenendo conto del percorso che questo paese ha fatto. Cioè è chiaro che la restrizione sulla legge dell'aborto e poi l'annullamento di ogni possibilità di aborto che era paventato viene da questa scelta di fondo. Allora, quante donne che sono andate in piazza contro questa restrizione dell'aborto sono state attive e partecipi in questo percorso di neoliberista che ha fatto la Polonia? Quante hanno aderito anche in maniera fattiva? Quante sono partecipi della situazione di potere in senso lato di quello che si muove nel sociale di questa scelta neoliberista? Allora, non si può, non è che la mano destra non può sapere quello che fa la mano sinistra. Una situazione, la lotta delle donne, è impossibile che sia scissa dal percorso, dall'impostazione sociale e dal percorso che fa la società. E se non c'è questa consapevolezza, la lotta non porta da nessuna parte. E oltretutto un tipo di lotta interclassista come quella dello sciopero delle donne non mette in evidenza le responsabilità che sono alla base di questo tipo di scelte, anche delle donne stesse che poi scendono in piazza per rivendicare un diritto che loro stesse hanno contribuito ad affossare. Parliamo poi per esempio dell'Argentina. Allora, in Argentina le donne che hanno chiamato questo sciopero contro i femminicidi, contro la violenza di genere in senso lato, contro la violenza maschile sulle donne. Ma in Argentina è stato votato ed è stato mandato e diventato presidente Macri, che ha praticamente, ed è stato eletto coram populo, cioè con elezioni vittoriose e anche importanti come numeri, no? Allora, Maurizio Macri ha praticamente smantellato tutto quello che era stato costruito negli anni peronisti di Néstor e Cristina Kirchner. Però non è che si sia nascosto, che questo programma l'abbia nascosto. No, no, ha raso al suolo, a suon di decreti, l'intera costruzione politica del kirchnerismo, che era incentrata su diritti umani e civili, sulla pratica economica keynesiana, a sostegno del mercato interno e del salario. Allora, è mai possibile scindere questo dalle manifestazioni sulla violenza contro la violenza sulle donne? Quante di quelle donne che sono scese in piazza contro i femminicidi hanno votato Macri? O Macri, non so. Quante hanno votato Macri? Quante sono responsabili di questo cambiamento importante, di questa rivoluzione dell'allegria che invece è una povertà, come la chiama Macri, che è invece una povertà totale, e pensano che questo non incida poi sulla modalità di approccio alle donne? Certo, non è che prima non ci fosse la violenza sulle donne, per carità, ma se c'è una strada che può aprire a un qualche risultato, non è certo quella di Macri. Allora, com'è possibile chiamare uno sciopero tutte le donne? Tutte quali? Tutte quelle che hanno votato Macri anche? O anche le poliziotte, o anche le giudici, o anche le magistrate? Ma questo vale anche qui da noi. E le donne francesi che hanno fatto uno sciopero, virgolettiamolo in rosa, contro le disparità salariali, possono mai pensare che questo tipo di diritto, che è ineludibile, nel senso che non dovrebbe esistere una disparità di trattamento, non dico fra uomini e donne, perché, ma comunque in generale chi lavora lavora e ha quello che deve avere. Però possono mai pensare che questo tipo di lotta possa essere incentrata con uno sciopero delle donne che è appunto una lotta interclassista. Una lotta generale generica che prende dentro tutte quelle che sono responsabili della perpetuazione di questa modalità di approccio sociale, soprattutto nella stagione neoliberista, che non ha neanche i connotati keynesiani che possono coprire quelle che sono le e parzialmente no, attenuare quelle che sono in effetti le responsabilità di quelle che sono partecipi al sistema. Adesso nella stagione neoliberista non c'è neanche modo di nascondersi o di camuffarsi. Le responsabilità sono talmente chiare, le scelte sono talmente chiare, è talmente chiaro chi sta da una parte e dall'altra che ci sembra assolutamente improponibile una modalità di lotta di questo tipo. Allora, questo ci ha portato a un'ulteriore riflessione. È mai possibile che in questa stagione, in cui ci dovrebbe essere una chiarezza politica, una chiarezza di intenti sulle responsabilità e sugli obiettivi che ha questo sistema e su chi è corresponsabile, ancora più forte, perché siamo in un periodo di cambiamenti epocali e di pauperizzazione generalizzata di non solo della piccola, gli strati proletari, sottoproletari, quelli che si chiamano oppressi e oppressi in generale, ma anche della piccola e media borghesia, una pauperizzazione generalizzata. È mai possibile chiamare a raccolta tutte le donne indifferentemente, anche quelle corresponsabili? Anche quelle partecipi, anche quelle collaborazioniste, ma non soltanto in maniera evidente, appunto, come possono essere le poliziotte, le magistrate, le giudici, ma anche quelle che partecipano attivamente alla costruzione di questo sistema. Una delle modalità principali che usa il neoliberismo è proprio quella di inglobare i soggetti oppressi nella gestione e nella gestione del potere in senso lato e a tanti livelli e con tante modalità, contributi, finanziamenti, partecipazioni, oltre alla condivisione diretta del potere, come nel caso delle donne di potere, no? Cioè, Christine Lagarde è a capo del Fondo Monetario Internazionale, voglio dire, una donna anche lei, no? E quindi com'è possibile mettere in atto modalità di lotta interclassiste in una stagione come questa? Ve la lasciamo come riflessione, qualsiasi osservazione, qualsiasi critica, qualsiasi contributo ce lo potete inviare a coordinamenta@autistiche.org oppure ci potete scrivere anche sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org. Ciao a tutte, ciao a tutti.